A bordo campo di Dario Ricci. A bordo campo torna con le nuove puntate a bordo campo edizione 2013. Beh, ma in questa fine di settembre ci viene voglia di inseguire ancora uno scampolo d'estate. E vi confesso che tra mondiali di atletica, mondiali di nuoto, la scherma, eccetera, eccetera, è stata un'estate di sport ricchissimo, ma le immagini che mi sono rimaste negli occhi sono di questi ragazzi che Barcellona 2013, ma poi non solo, salgono su quel trampolino a 27 metri, 27 metri su per giù 8 piani d'altezza di un palazzo dal livello del mare, costumino, bel respiro profondo e tuffo, capriola, 3 secondi, una velocità che su per giù arriva intorno ai 90 orari e l'impatto con l'acqua è il tuffo spettacolare. Una disciplina, quella dei tuffi estremi, che ha esordito anche a livello mondiale. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di un campione, ma anche capire un po' di più di questo sport che mi ha entusiasmato. Non vi prometto che anch'io salirò su quel trampolino, perché ogni tanto c'ho qualche vertigine, ma insomma la tentazione c'è. Nel caso, Alessandro De Rose, puoi farmi un po' da istruttore? Benvenuto a bordo campo. Grazie, certo, vuoi qualche buon consiglio per iniziare a tuffarti dalle grandi altezze o cosa posso fare per te? No, ecco Alessandro, mi sembri proprio il maestro adatto, perché 21 anni, calabrese, Alessandro è stato il più giovane partecipante, l'unico italiano, ma anche il più giovane partecipante delle Red Bull Cliff Diving World Series, il circuito internazionale di tuffi estremi. Ha mancato per pochissimo la qualificazione ai mondiali di Barcellona 2013, insomma, professore di tuffi estremi in cattedra, direi, no Alessandro? Sì, no professore, mi sono appena affacciato a questa nuova disciplina che sono i tuffi estremi, perché come tutti gli altri tuffatori che partecipano a queste gare, vengo dalla disciplina dei tuffi normali, chiamiamoli così, quelli dal trampolino di 3 metri e dalla piattaforma di 10 metri. È uno sport che mi ha appassionato da quando avevo 18 anni, possiamo dire, perché ho incominciato a tuffarmi negli show di tuffi a Roma, a Zomarin, e mi ricordo che quando arrivai lì il mio capo mi chiese se potevo tuffarmi solo da 3-10 metri solo per lo show, non gli serviva a nessuno che si tuffasse da 25 metri. Però non so, c'era un qualcosa che mi chiamava, perché era troppo affascinante, è una sensazione troppo bella, una scarica di adrenalina assoluta, quindi è valso la pena metterci anche quella quindicina, diciassettina di metri in più, tanto ormai già che ci stavi, no? Sì, ne è valsa la pena, perché non so come spiegare, qualcosa di è una scarica di adrenalina troppo... Non so come dire. Ecco, bravo. Non ci sono parole per cercare di spiegare. Hai detto bene, pure a me, quando vi vedo su quel trampolino manca un po' il fiato. Senti, disciplina, ecco, dal punto di vista tecnico, entriamo un po' nel tecnico, che cosa cambia? Chiaramente l'altezza, e quindi cambia molto, ma rispetto ai normali, tra virgolette, tuffi dai 10 metri, ecco, quali accorgimenti dovete usare e come costruite un po' il vostro tuffo? Dal punto di vista del punteggio, o meglio del voto che il giudice andrà a dare al tuffo, non c'è nessuna differenza tra il cliff diving e i tuffi normali dai 3 ai 10 metri d'altezza. La differenza è come ci alleniamo, perché giustamente, come puoi ben immaginare, non abbiamo nessuna piattaforma da 28-27 metri al chiuso, quindi l'unico metodo che abbiamo per allenarci è di scomporre e ricomporre il tuffo, o meglio, mi spiego. Facciamo delle cadute del Barani, ok? Praticamente il Barani è un salto mortale in avanti con mezzo avvitamento, e durante questo salto mortale tu tieni sotto controllo lo specchio dell'acqua, se questo, non so se Sì, mi segui? Sì. Non è facile, ma ti Benissimo. seguo in questo tuffo che in realtà poi nei fatti dura 3 secondi, ma già ci aiuti a capire quanto invece è complesso costruirlo, no? Sì, esatto, cioè essenzialmente noi proviamo i tuffi che vogliamo andare a fare in gara da 10 metri e poi nulla, facciamo altri 15-16 metri di caduta libera con questo gesto tecnico che si chiama Barani, che ti permette di tenere sotto controllo la rotazione, quindi se è ben fatto riesci ad atterrare in piedi, che è esattamente quello che vuoi, perché... Certo, perché anche il, ti, è il ti momento... Ti potresti fare di testa, però no, non è consigliabile. Ecco, bravo, questo diciamolo, perché pure qua in redazione si discuteva, dice, ma si può entrare di testa? No, guarda, si spaccano tutto. Ecco, cioè, facci capire, l'assetto del corpo deve essere particolare, vero? Sì, deve essere sempre... Allora, immagina una linea verticale di 180 gradi, ok? Il tuo corpo deve essere come quella, perché nel minimo degli errori ti puoi far male. Ti dico un qualcosa che è successo a me. Una volta sono entrato in acqua in piedi, dritto, se così si può dire, però il mio mento era un po' troppo avanti nell'entrata, quindi pochi centimetri. Ho ricevuto un cazzotto dall'acqua che mi ruppe tutte le gengive. Quindi insomma a quel punto era meglio fare la box, almeno c'è Sì, in effetti quello che dico sempre è, dopo la gara dalle grandi altezze, è come aver fatto un incontro di box con Tyson e aver perso, perché anche se si arriva nella maniera esatta ti fai male sempre, però è un male che si può sopportare. Infatti non a caso vedevo anche nelle vostre gare c'è l'immediato l'intervento dei sub, no? Che vengono, vi si avvicinano subito per vedere se il tuffo è andato bene, se tutto è a posto, no? Quindi insomma c'è subito quello è un qualcosa che necessitiamo, purtroppo, perché molte volte, torno a ripetere, puoi entrare nella maniera più, puoi fare un'entrata come i cinesi senza nessuno schizzo, solo nulla, ma probabilmente sei entrato un po' scarso, può darsi che puoi anche svenire. Non ne dubitiamo, perché abbiamo visto la pericolosità ma anche l'emozione che sanno dare questi tuffi. Per quanto riguarda invece la preparazione a secco, come lavorate? Fate molta palestra oppure magari... Sì, allora facciamo tanta palestra dal punto di vista di pesi, e facciamo anche tanta palestra dal punto di vista di ginnastica artistica. Perché dovete essere molto agili, insomma. Certo, noi facciamo sin da piccoli, dall'età di 6 anni, impariamo a fare i salti mortali, tutti i giorni andiamo in palestra, facciamo i salti mortali, questo perché dobbiamo abituarci a capire dove siamo nella rotazione, quindi la maggior parte del lavoro viene sviluppato sul pavimento, dove si provano i tuffi a terra, i movimenti del tuffo, perché deve diventare un'abitudine per te, non ci devi neanche pensare, quindi proviamo tante volte il tuffo per terra, lo costruiamo, poi magari lo proviamo a secco sul trampolino elastico e poi infine magari abbiamo un attrezzo che si chiama lonce, che sarebbe praticamente una cintura che ti tiene in aria, dove è legato con delle corde, dove puoi provare il tuffo tranquillamente in totale sicurezza e dopo nulla. Dopo si respira, sì. 1, 2, 3 e si prova. Sì, detta così è facile, ma adesso ci penso, poi appena mi tuffo ti richiamo così mi dici bene. Senti, una cosa bella è che questo tour mondiale ti sta portando a tuffarti un po' in tutti i posti, ho visto foto dall'isola di Pasqua, dal Portogallo, dalla Francia, è una disciplina che per la sua spettacolarità sta prendendo piede e conquista appassionati, conquista curiosi. Stiamo girando un pochino e soprattutto le location sono sempre straordinarie. Cioè ti dà l'opportunità di girare il mondo e di vedere location come Malcesine, per esempio. Io sono italiano e mi vergogno di dire che prima dei 21 anni non avevo la più pallida idea di dove si trovasse Malcesine. Sul lago di Garda, Castello Scaligero, vi siete tuffati anche da lì e sei stato tra i protagonisti di questa gara. Sì, è stata la mia prima gara, ci siamo tuffati dal balcone del castello, hanno costruito la piattaforma proprio lì, al di fuori del balcone, ed è stata una gara strepitosa. Me la porterò per tutta la mia vita, perché tra i giudici c'era Greg Louganis, che è una leggenda del mondo di tuffi. Certo. Mi ricordo che lui mi diede un 9 a uno dei miei tuffi. Per me praticamente è stato come un sogno che diventa realtà. Addirittura un 9 da Louganis può anche togliere degli stimoli, perché uno dice, vabbè, la finisco qua la carriera perché quasi di più non posso avere. però sì, Alessandro, sì. Alessandro De Rose, prossimi obiettivi, perché immagino che quella mancata qualificazione ai mondiali ti sia rimasta un po' sul gozzo, e comunque partirà una nuova stagione, quali sono i prossimi obiettivi? Sicuramente migliorare il posto che ho avuto a Malcesine, e sono abbastanza fiducioso in questo, in quanto mi sto allenando un po' più seriamente, perché non avevo mai preso sul serio l'idea di andare a fare il Cliff Diving, ma da quando mi ha chiamato la Red Bull sto iniziando a pensarci un po' di più. Prossimi obiettivi, dovrei andare in Scozia, mi hanno inviato un'email 2 giorni fa per andare in Scozia, ma non a partecipare alla gara, solo per allenarmi, in quanto il prossimo anno mi chiameranno per avere più opportunità di tuffarmi durante il tour della Red Bull, e quindi il prossimi obiettivi è dimostrare al mondo che anche gli italiani sanno volare dalle rocce. Beh, non abbiamo dubbi che l'obiettivo verrà centrato. Alessandro De Rose, grazie per essere stato oggi il nostro ospite qui a Bordo Campo. Ti seguiamo nelle tue peripezie, nei tuoi spettacolari tuffi. Hai conquistato qualche tifoso in più oggi, dai. Grazie, grazie, grazie mille, grazie per l'opportunità, grazie ancora. A bordo campo. Caro Bulldozer, nella vita c'è chi vince e chi perde. E guarda caso, in questo incontro chi perde sei tu. First down. Momento, momento, time! È entrato un nuovo giocatore, col numero 63 entra Bulldozer. Colpo di scena che lascia disorientati i Rangers, il fuoriclasse più amato e acclamato dalle folle americane, forse anche il più discusso per la nota faccenda del suo misterioso ritiro, ora calca di nuovo il terreno di gioco e prende posto tra i suoi compagni. Scena divertente e indimenticabile, lo chiamavano Bulldozer, mitico film degli anni Ottanta, protagonista un Bud Spencer, ex campione di football americano, che poi ritrova entusiasmo, energia e voglia di ritornare in campo e guida un gruppo di ragazzotti italiani a un successo insperato contro una squadra americana. Insomma, questo è il canovaccio della trama, tanto per dirvi che oggi parliamo di football americano perché ci sarebbe forse voluto Bulldozer per vincere questo gruppo B degli europei di football americano che l'Italia ha recentemente ospitato al Vigorelli di Milano. Successo sfumato proprio in finale 49-29 contro la Danimarca, e peccato, perché sarebbe stata una bella occasione per far crescere ancora di più un movimento che comunque presenta un certo dinamismo e corre veloce verso la meta, diciamo così. Ne parliamo oggi con due dei protagonisti della nazionale azzurra, Daniele Pezza, linebacker dei Siemens Milano. Benvenuto Daniele. Ciao, grazie a tutti, saluto tutti gli ascoltatori, grazie Dario per l'opportunità. E poi Stefano Di Tunisi, sempre dei Siemens Milano, ma Stefano tra l'altro c'ha 2 o 3 ruoli, vero Stefano? Perché sei il punter, quello che si occupa dei calci, mi ha detto Daniele che sei anche un ottimo ricevitore, poi che altro fai in squadra? Beh, mi manca solo più da portare anche da bere i miei compagni, lo farei anche molto volentieri. Poi tra l'altro Daniele so che è un linebacker, quindi dovrebbe essere un pochino più robusto di te, se non sbaglio, no? Quindi dovesse chiedertelo, bisogna pure dargli ragione. Bisogna sempre tenersi di buoni linebacker, soprattutto in scrimmage si gioca in allenamento, si gioca contro, e quindi meglio sempre essere d'accordo con loro quando dicono qualcosa. Capposta, quindi diciamo qua chi comanda è Daniele Pezza, perché è il più grosso di tutti, e Stefano ed io ci mettiamo in buon ordine. Daniele, un'occasione sfumata questa di questo torneo, anche se poi in realtà si è visto un Vigorelli pieno come nelle grandi occasioni, forse proprio perché Milano è una delle capitali storiche del football americano italiano, no? Sì, sicuramente Milano ha un bacino d'utenza nel football americano molto ampio, e soprattutto ci sono 2 squadre storiche che sono i Rhinos Milano e i Siemens Milano, che hanno vinto i primi soprattutto vari Super Bowl e sono state anche una delle prime squadre italiane che hanno fatto parte al campionato negli anni 70. vedere un Vigorelli pieno come quello che abbiamo visto e vissuto durante i campionati europei è stata un'esperienza unica, perché in Italia era, personalmente io non avevo mai vissuto e giocato una partita davanti a un pubblico così numeroso e soprattutto così caldo. Mi ricordo e mi ricorderò sempre il boato che è scoppiato quando negli ultimi 20 secondi di partita abbiamo segnato contro l'Inghilterra battendola. Tutto lo stadio è esploso in una grido di felicità per l'impresa che avevamo compiuto. Insomma, un urlo di questo tipo in quella che è la casa storica del grande ciclismo, della grande box, una delle culle dello sport italiano, non è certo roba da poco. Stefano di Tunisi, aiutaci un po' a capire come ci si avvicina al football americano, com'è nata la tua passione, perché è sicuramente sport per un gruppo ben consolidato di appassionati, ma insomma diciamo che ce ne vuole un po' prima di arrivare a quella palla ovale, no? Certo, diciamo che di famiglia mio padre piaceva molto guardare negli anni 80-90 i gloriosi Dallas Cowboy. Sì, buon gustaio, insomma. Sì, all'epoca erano. E poi anni dopo io ho potuto godere dell'esperienza che ho fatto negli Stati Uniti e guarda caso sono terminato proprio in Texas, a un'ora circa da Dallas, studiando nella scuola superiore, e lì appunto ho avuto modo di poter vedere le prime palle ovali e i primi giocatori di football, e da subito è uno sport talmente emozionante, talmente ricco di impegno e tutto quanto che mi ci sono appassionato. Però voi chiaramente non siete professionisti, come organizzate la giornata tra allenamenti e immagino lavoro, tu che fai? Io lavoro in un ufficio nel settore immobiliare, diciamo che finita la giornata lavorativa prendo con la mia bicicletta, vado a casa, mi cambio e con grinta vado in palestra, che ho vicino a casa e vicino al Vigorelli. Con l'idea di incontrare Daniele Pezza, che insomma sarà il doppio di te, e quindi diciamo ci vuole anche tanta grinta a fine della giornata, no Daniele? Tu mi raccomando, in allenamento almeno non esagerare, insomma. No, sì, sicuramente riuscire a fare entrambe le cose è difficile, perché comunque lavorando e tutto il resto, far combaciare anche uno sport come il football che è molto complesso anche in quello che è la preparazione alla gara, al campionato, è difficile, però come diceva Ditu, è uno sport che ti prende talmente tanto, che ti appassiona in tale modo che diventa quasi un sogno viverlo. Quindi fare i 3 allenamenti a settimana in palestra, i 2/3 allenamenti su campo, andare anche a correre quando hai tempo nel weekend, eccetera, eccetera, diventa una cosa normale. Ti ritagli i tempi o al mattino alle 5 o alla sera tardi. Non a caso lo sentite, Daniele è in treno perché è pendolare e appena scende alla stazione d'arrivo si cambia e va all'allenamento, se non è passione questa. Stefano di Tunisi, una sconfitta che inevitabilmente un po' frena le ambizioni, le aspettative dell'intero movimento, ma a livello europeo appunto cosa ci manca per fare un salto ulteriore di qualità a livello organizzativo soprattutto, immagino? Penso che il movimento, sia la federazione e tutto quanto annesso, si stia muovendo sulla strada giusta, e hanno ambizione e lo si è dimostrato anche nella preparazione in vista di questi europei. Abbiamo incontrato, ci siamo ritrovati parecchie volte durante i fine settimana e abbiamo fatto anche delle partite appunto in avvicinamento di questo europeo a Palermo contro la Svezia, che prende parte all'europeo di gruppo A. Lì abbiamo visto un attimino i livelli che si incontrano in Europa appunto del gruppo A. Siamo sulla strada giusta, ci manca semplicemente l'esperienza di giocare a certi livelli e la preparazione tecnico, tattica, possono incontrare a quei livelli naturalmente. Insomma, ben vengano giocatori americani di buon livello, però ad istruirvi e ad educarvi nel giusto modo. A proposito, Stefano, qual è il tuo mito del football americano NFL? Ce ne sono tanti. Uno che ho avuto il piacere di conoscerlo è Jensen Hanson, è un kicker storico dei Detroit Lions, Hall of Famer già della NFL, che ho avuto modo di conoscere grazie ad un ex allenatore della nazionale, Brock Olivo. E poi ci sono naturalmente i ricevitori, dove si cerca sempre di arrivare al loro livello, ma credo che se si crede negli extraterrestri, quelli secondo me lo sono. Ecco, ecco, insomma, qualcuno ogni tanto vede gli UFO, voi capita di incrociarli magari a notte fonda sui campi dell'NFL davanti a un televisore. Stefano, chiudiamo con una curiosità. Ti confesso che io sono un tifoso dei Washington Redskins. Quando ho iniziato a seguire il football americano erano una squadra di altissimo livello, anni 80. Adesso dammi qualche speranza per questa stagione. Ma bisogna vedere, ogni stagione è fine a se stessa. Per esempio i Baltimore Ravens hanno vinto il Super Bowl e hanno perso questa settimana contro i Denver Broncos in maniera abbastanza netta. Per cui l'NFL non si può dare un giudizio all'inizio, si può sperare di fare la propria squadra. Naturalmente, essendo un texano adottivo, tifo naturalmente Dallas e Houston. Beh, allora ci vedremo sul campo della NFL. Intanto grazie a Daniele Pezza e a Stefano Di Tunisi della Nazionale Italiana e dei Simon Milano di football americano per essere stati oggi nostri ospiti qui a Bordo Campo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltarci dal sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento è come sempre per domenica prossima alle 14.30 e in replica ogni sabato mattina dalle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.